Alle scuderie del Quirinale di Roma, il Museo Universale, dal sogno di Napoleone a Canova. Una grande mostra per rievocare l'avventuroso recupero dei capolavori italiani dalla Francia. Raffaello, Tiziano, Guido Reni. Fino al 12 marzo, scuderiequirinale.it. Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte. Traduzione di Monica Pareschi. Negli 8 anni trascorsi a Lowood, 6 come allieva, 2 come insegnante, condussi una vita monotona, ma certo non infelice, poiché mi diedi molto da fare. Avevo a portata di mano i mezzi per procurarmi un'ottima istruzione. Mi sosteneva inoltre una vera passione per alcune materie e il desiderio di eccellere in tutte quante, oltre al piacere di risultare gradita alle mie insegnanti, soprattutto a quelle che amavo. Insomma, trassi il massimo profitto dai vantaggi che mi venivano offerti. A un certo punto divenni l'allieva migliore dell'ultima classe, quindi passai al ruolo di insegnante, compito che assolsi con zelo per 2 anni. Ma alla fine di quel periodo qualcosa in me cambiò. Nel mezzo di tutti quei mutamenti, la signorina Temple aveva continuato fino a quel momento a essere la direttrice del collegio. Era ai suoi insegnamenti che dovevo la parte migliore di quello che avevo imparato. La sua amicizia, la sua compagnia erano state un continuo conforto. Per me era stata una madre, una maestra e negli ultimi tempi un'amica. In quel periodo si sposò. Assieme al marito si trasferì in una contea lontana e di conseguenza io la persi per sempre. Dal giorno della sua partenza non fui più la stessa. Con lei era scomparso ogni senso di sicurezza, ogni associazione che in qualche modo aveva fatto di Lowood la mia casa. Da lei avevo assimilato qualche tratto del carattere e molte delle sue abitudini. I miei pensieri erano più armoniosi, i miei sentimenti più regolari. Mi ero consacrata al dovere, all'ordine, ero tranquilla e appagata, o almeno così credevo. Agli occhi degli altri e di solito anche ai miei, ero diventata una persona disciplinata e sottomessa. Ma il destino, sotto le spoglie del marito, si mise tra me e la signorina Temple. Poco dopo la cerimonia nuziale la vidi salire in abito da viaggio su una carrozza a nolo e rimasi a guardare la vettura che saliva per la collina, per poi sparire oltre la cima. Dopodiché mi ritirai nella mia stanza, dove trascorsi la maggior parte di quel giorno di vacanza concesso per festeggiare le nozze. Andai su e giù quasi tutto il tempo. Non riuscivo a pensare ad altro che alla mia perdita e a come porvi rimedio. Ma quando smisi di riflettere e alzando gli occhi scoprii che il pomeriggio era passato ed era già buio da un pezzo, feci un'altra scoperta, e cioè che in quelle ore avevo subito una trasformazione. La mia mente si era liberata di tutto ciò che aveva preso in prestito dalla signorina Temple, o meglio, lei si era portata via quell'atmosfera serena che avevo sempre respirato in sua presenza. E ora, ritrovandomi nel mio elemento naturale, sentivo agitarsi in me le antiche emozioni. Non era tanto la sensazione che mi fosse venuto a mancare un sostegno, ma che non ci fosse più uno scopo. Avevo imparato a mantenermi calma, ma non ce n'era più ragione. Per anni Lowood era stato il mio mondo. La mia esperienza si limitava alle sue regole, ai suoi schemi. Adesso mi ricordavo che il mondo era un luogo vastissimo e che una gamma infinita di speranze e timori, di sensazioni e passioni attendeva chi avesse il coraggio di inoltrarsi in quegli spazi sconfinati, di inseguire tra i perigli la vera conoscenza della vita. Andai alla finestra, l'aprì, guardai fuori. Ecco le due ali dell'edificio, ecco il giardino, i dintorni di Lowood, l'orizzonte di colline. I miei occhi oltrepassarono tutto questo per fissarsi su quanto c'era di più remoto. Le cime azzurre. Erano quelle che volevo a tutti i costi valicare. Tutto ciò che era racchiuso da quel confine di roccia ed erica mi sembrava una prigione, una terra d'esilio. Seguì con lo sguardo la strada bianca che si snodava ai piedi di una montagna per poi sparire in una gola formata da altre due. Come bramavo di seguirla. Ripensai al giorno in cui avevo percorso quella strada in diligenza, scendendo per quella collina al crepuscolo. Sembrava passato un secolo dal giorno che mi aveva portata a Lowood e da allora non me n'ero più andata. Le vacanze le avevo sempre passate in collegio. La signora Reed non mi aveva mai fatta tornare a Gateshead, né lei né qualche altro membro della famiglia erano mai venuti a trovarmi. Non avevo mai ricevuto una lettera, un messaggio da fuori. Regole, doveri, abitudini, nozioni scolastiche, voci, facce, frasi, abiti, preferenze, antipatie del collegio. Ecco tutto ciò che sapevo della vita. E adesso sentivo che non era abbastanza. In un solo pomeriggio mi stancai di 8 anni sempre uguali. Desideravo la libertà, la anelavo, pregai per averla. Ma la mia preghiera sembrò perdersi nel vento leggero che soffiava in quel momento. La lasciai andare e formulai una supplica più umile. Implorai un cambiamento, uno stimolo. Ma fu come se anche quella richiesta fosse spazzata via nel vuoto e, sull'orlo della disperazione, singhiozzai «Che mi venga concessa una nuova servitù, almeno!» In quel momento la campanella della cena mi richiamò al piano di sotto. Solo allora di andare a letto potei riprendere la catena interrotta delle mie riflessioni. E anche allora un insegnante che divideva la stanza con me mi distolse con le sue inarrestabili chiacchiere dai pensieri a cui desideravo tornare. Come avrei voluto che il sonno la zittisse, se solo avessi potuto dedicarmi in santa pace all'ultima idea che mi era venuta mentre ero alla finestra, ero sicura che sarei riuscita a inventarmi una soluzione e a trovare in essa un po' di conforto. Finalmente la mia collega insegnante si mise a russare. Ero libera da qualsiasi interruzione e i pensieri che avevo quasi cancellato si ravvivarono all'istante. Una nuova servitù potrebbe essere un'idea, esordii dentro di me, ben inteso, non certo ad alta voce. So che è possibile, perché non suona certo ideale. Non assomiglia a parole come libertà, gioia, piacere, parole davvero meravigliose, ma nient'altro che parole per me. E così vuote, fugaci, che ascoltarle è una pura perdita di tempo. Servitù. Questa, sì, che è una parola concreta. Chiunque può servire. Io l'ho fatto per 8 anni qui. Adesso tutto quello che voglio è servire altrove. Non posso decidere almeno in questo. Non è una cosa fattibile, ma sì, sì, dopo tutto non è così arduo, se solo avessi abbastanza cervello da escogitare i mezzi per raggiungere il mio scopo. Mi misi a sedere sul letto, sperando in quel modo di risvegliare il mio suddetto cervello. Era una notte gelida, perciò mi misi uno scialle sulle spalle e cominciai a spremermi le meningi. Che cosa voglio? Un nuovo lavoro, in una nuova casa, in mezzo a facce nuove e in condizioni nuove. È questo che voglio, perché è inutile desiderare qualcosa di meglio. Come si fa a ottenere un lavoro? Ci si rivolge agli amici, immagino. Ma io non ne ho. Sono in molti a non averne e a doversela cavare da soli. E qual è la loro risorsa? Non ne avevo idea. E la domanda rimaneva senza risposta. Allora ordinai al mio cervello di trovarne una e in fretta. Si mise dunque a lavorare di buona lena, tanto che mi sentivo pulsare la testa e le tempie, ma per quasi un'ora si mosse a casaccio e ogni sforzo si rivelò vano. Sovraeccitata da quella fatica inutile, mi alzai, feci il giro della stanza, scostai le tende, vidi un paio di stelle e, rabbrividendo, mi infilai nuovamente a letto. Ma in mia assenza, una fatta buona doveva aver lasciato cadere sul mio cuscino il suggerimento richiesto, perché mentre mi sdraiavo mi sovvenne del tutto spontaneamente, senza alcuno sforzo: chi cerca lavoro pubblica un'inserzione, devi metterne una sull'Herald. Ma come? Io non so nulla di inserzioni. Ma ecco lì la risposta, bella e pronta. Devi mettere l'annuncio e il denaro per pagarlo in una busta indirizzata all'editore dell'Herald. E alla prima occasione andrai a Lawton a imboccare la lettera. Le risposte dovranno essere indirizzate a Jane Eyre direttamente all'ufficio postale. Nel giro di una settimana dovrai tornare e informarti se qualcuno ti ha risposto e agire di conseguenza. Ripetei la sequenza 2 o 3 volte nella mia mente finché riuscii ad assimilarla. Quando l'ebbi ben chiara in testa, mi addormentai soddisfatta. All'alba ero già in piedi. Prima che suonasse la campanella della sveglia, avevo scritto l'annuncio e l'avevo messo in una busta con l'indirizzo. Diceva: giovane insegnante. Non avevo forse insegnato per 2 anni? Cerca impiego presso famiglia con figli sotto i 14 anni. Avendone da poco compiuti 18, ritenevo inopportuno occuparmi di ragazzi quasi coetanei. Abilitata all'insegnamento delle materie fondamentali per una solida istruzione inglese, oltre che del francese, del disegno e della musica. Scrivere a Jane Eyre, fermo posto a Lawton, contea di eccetera eccetera. La lettera rimase chiusa nel mio cassetto per tutto il giorno. Dopo che fu servito il tè, chiesi alla nuova direttrice il permesso di andare a Lawton a sbrigare qualche piccola commissione per me e le mie colleghe. Lo ottenni senza indugio e uscii. Bisognava percorrere 2 miglia ed era una serata umida, ma le giornate erano ancora lunghe. Entrai in un paio di negozi, imbucai la lettera e tornai sotto una pioggia torrenziale, con gli abiti zuppi ma col cuore leggero. La settimana seguente mi parve interminabile. Alla fine trascorse, però, come ogni cosa sotto il cielo, e ancora una volta, al tramonto di una bella giornata d'autunno, mi ritrovai in cammino sulla strada di Lawton. Era un tragitto pittoresco che per un tratto seguiva il ruscello e poi si addentrava serpeggiando nella valle. Anche se quel giorno pensavo più alle lettere che forse mi aspettavano, forse no, nel piccolo borgo dove ero diretta, che alla bellezza della natura. Il motivo ufficiale della mia visita quella volta era prendere le misure per farmi confezionare un paio di scarpe. Perciò sbrigai quell'incombenza per prima e, quando ebbi finito, attraversai la stradina linda e tranquilla in cui si trovavano sia il calzolaio sia l'ufficio postale. L'impiegata era una vecchia signora con gli occhiali di corno sul naso e i mezzi guanti neri. «Ci sono lettere per Jane Eyre?» Lei mi scrutò al di sopra degli occhiali. Poi aprì un cassetto e ci frugò dentro. A lungo, così a lungo, che cominciai a perdere la speranza. Alla fine ne estrasse un documento che tenne davanti agli occhiali per quasi 5 minuti. Quindi me lo porse attraverso il banco, accompagnando il gesto con un'altra occhiata indagatrice carica di diffidenza. Era per Jane Eyre. «Solo una?» chiesi. «Non c'è altro», disse, e io me la infilai in tasca e feci dietro front. Non potevo aprirla subito perché le regole del collegio mi imponevano di tornare entro le 8 ed erano già le 7:30. All'ultima luce della candela tirai fuori la busta e ruppi il sigillo su cui era impressa l'iniziale F. La lettera era breve. Se Jane Eyre, che ha pubblicato l'annuncio sull'Herald di giovedì scorso, è in possesso dei requisiti indicati e sia in grado di fornire referenze adeguate e dimostrare le sue competenze, potrebbe considerare un'offerta di lavoro come istitutrice di una bambina sotto i 10 anni. Il salario è di 30 sterline annue, referenze, nome, indirizzo e altre indicazioni utili vanno inviati a signora Fairfax, Thornfield, Millcote. Esaminai a lungo la lettera. La calligrafia era antiquata e un po' incerta, come quella di una persona anziana. Questo mi confortò. Il timore che avevo, agendo in solitudine e facendo di testa mia, era di cacciarmi in qualche guaio e più di tutto desideravo che il risultato dei miei sforzi fosse una situazione rispettabile, decorosa, en règle. Mi sembrava dunque che la presenza di una signora in là con gli anni non fosse un elemento negativo nella faccenda. Nel giro di un mese raccolsi le referenze. Ne inviai una copia alla signora Fairfax. Lei rispose che era molto soddisfatta e fissava di lì a 15 giorni il mio arrivo a casa sua in qualità di istitutrice. A quel punto mi occupai dei preparativi e i 15 giorni passarono in fretta. Non avevo un guardaroba particolarmente ricco, sebbene adeguato alle mie necessità, e l'ultimo giorno mi bastò per riempire il baule, lo stesso che avevo portato con me da Gateshead 8 anni prima. Il baule fu legato, l'indirizzo appuntato sopra. Entro mezz'ora sarebbe passato a prenderlo il cocchiere che l'avrebbe portato a Lawton, dove l'avrei seguito la mattina dopo di buon'ora per prendere la diligenza. Avevo spazzolato l'abito da viaggio nero, preparato il cappello, i guanti e il manicotto. Avevo inoltre controllato i cassetti per assicurarmi di non dimenticare nulla, dopodiché, non avendo altro da fare, mi sedetti e cercai di riposarmi. Non ci riuscii. Pur essendo stata in piedi tutto il giorno, non riuscivo a fermarmi un momento perché ero troppo agitata. Quella sera si chiudeva una fase della mia vita. Un'altra si sarebbe aperta l'indomani. Impossibile dormire nel frattempo. Dovevo vegliare, in preda a una specie di febbre, finché il cambiamento non si fosse compiuto. Elisabetta Piccolomini ha letto Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. A cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.